C'è qualcuno in podio, niente qua in zona che venda insetticida? Insetti, no. Arachnicida. Secondo me conviene muoversi prima che faccia buio in modo da raggiungere la foresta prima di stanotte, siccome sarà una mezza giornata di cammino, da quello che ho capito. Sì, adesso è fondamentalmente metà mattinata, fai 10:30 più o meno. Partendo adesso, mantenendo una buona andatura ma senza ammazzarvi, arrivereste al limite della foresta tardo pomeriggio, Prima del tramonto, sì, comunque. prima del tramonto sicuramente. Quanti di noi vedono il buio? Io Tutti. Io vedo il a buio. posto. Anch'io credo di riuscire a vedere il buio, quindi ok, non Sì, sarà un sì, sì. problema Ma il vediamo tutti il buio. buio alla fine. E non abbiamo nessun druido, niente che possa saperci dire qual è il ciclo circadiano dei ragni? No, mi sa che non abbiamo druidi in squadra. Quindi Volete io farvi ho preso resistente al veleno. qualcuno di voi che sia Chi proficiente in ha detto che è natura? resistente al veleno? In Io sono nani. proficiente in natura, in Io. effetti. Ah, fatto, vanno avanti i nani ad attirare i ragni. Una proficiency in natura mi può provare a fare un Ma tiro. l'ho tirato male io, quindi. Anche io. Io ho un misero 3, provo a tirare a caso. Siete dei Vediamo. nani. Poi. Sì, Non so che cacchio. i nani sono Vado nani, anch'io allora. vivono nelle caverne, appunto, e non hanno idea di come funzioni un ragno in un bosco. Te, Gabriele, questa zona un po' ci hai già girato. E ho fatto anche un 18, quindi. Esatto, ti sembra di ricordare che non hanno un periodo, diciamo, di caccia preferiti i ragni, cioè stanno lì fermi, immobili, fondamentalmente dormendo tutto il tempo fino a che una preda non arriva in zona e a quel punto sono Fino a attivi. che non è ora, fino a che non è ora di mangiare. Esatto. E per loro è sempre ora di Qualcosa mangiare se c'è qualcosa da avrei mangiato. mangiare. Esatto, i ragni non cacciano, aspettano. Abbiamo niente per fare il fuoco. Dovreste avere delle torce. Abbiamo Cioè delle per torce. bruciare le ragnatele che magari ci sono, così magari Io le qualcosa si. torce. Dovreste avere delle torce. Sì, Io ho. anch'io le torce, ho l'Explorer's Pack, quindi. Io ho Firebolt come cantrip, non Lei so se è un può servire. incantesimo. Sì. È un incantesimo che fa fuoco e può dare fuoco, Ed vero? è un incantesimo di fuoco Sì, può e dare fuoco, può dare quindi. fuoco a roba. Ed è un cantrip, quindi può Ed è usarlo un cantrip. all'infinito. Sì. Sì. Fatta, Sì, bocca. quanto Quindi può sanitare. abbiamo il fuoco, abbiamo la possibilità di vedere di notte e andiamo, trotterelliamo verso. Deve succedere qualcosa tipo un incontro per Trotterelliamo. strada, un. Provate a farmi un tiro di, diciamo, percezione. Guarda, Io non ho percezione. capito come si gira. Io Io ho fatto uno. Ottimo. Abbiamo un 15. C'è Andrea, si è perso. Sì, Oh. esatto. Abbiamo un sacco di 20 natura. stasera siamo caldi, eh. Venti Però la naturali. percezione che cade, dov'è? C'è Dove lo trovo? perception nelle Perception. skills. Nella tua scheda Dove hai messo personaggio sulla sinistra. intelligenza, saggezza, carisma, là subito a destra di quelle c'è tutta la sfinza. Wow, non trovo davvero niente. Sulla scheda del Massi, voi personaggio, siamo. c'hai la perception? sezione No. skills di fianco alle tue caratteristiche e a un certo punto c'è perception. Passive wisdom. No, no, no, No. sopra, più sopra. Un pochino Sì. sopra. C'è proprio un riquadro Ok. con scritto skills. Sì. L'ho trovato. E come si tira? Devo premerci Clicchi su sopra? perception. Clicca su perception. L'ho cliccato. Boom. Ha fatto critico Abbiamo anche a lei, quindi. due eventi Sì, naturali, no, quindi abbiamo sto percepito il preparando la mappa. percepibile. Ah. Sto preparando la mappa di quello che avete percepito, perché avete percepito. Però mi mancano dei token. Eccoli qua. Allora, Dai, troviamo già i primi coboldi. siete lì lungo la strada che procedete verso la foresta. A un certo punto c'è una curva nella strada e questo personaggio è Gabbro. C'è una curva nella strada e sulla destra c'è scaglia, c'è spugli, cose di questo tipo. Vedete in quei boschi, in quella boscaglia, tra le fronde del movimento, e ora finisco di mettervi nella mappa, e riconoscete appunto che ci sono dei coboldi che vi aspettano. Ora ci aspettano? Sì, erano appostati, non aspettano voi direttamente, okay. Non credete, ma erano, ah, ci attaccano, erano direttamente appostati, e sì, loro sono lì armati. Se trovo anche il loro token, eccoli qua. E sono pronti per combattere. Devo metterne un po', scusate, mi ci va un attimo a mettere tutti i token nella mappa, perché non era un esercito. Voi la vedete la mappa, giusto? Sì. No, vedo soltanto i nostri così. I coboldini, che carini. Non la vedete la mappa? Sì. Io no, purtroppo. Aspetta che aggiorno. Io e Gimli siamo nell'acqua, praticamente. No, no, è la strada quella. Scusate la mia scarsa abilità di disegno. No, figure. Non era mia intenzione. Già. Poi... Cioè, loro ci hanno già visto o li vediamo prima noi? Vi vedete a vicenda. Loro stavano aspettando che passasse qualcuno e voi li vedete appostati, quindi non siete sorpresi, diciamo. Un eventuale approccio diplomatico? Sono troppo agitati per tentare di parlare con noi? Ma che vuoi parlare? Facimmelo fuori, chi sta? Come dice, scusate, ho visto Gomorra. Perché eventualmente potremmo chiedere di parlare con il drago, il loro signore e padrone. Potete sicuramente provare, però prima tiratemi l'iniziativa. Dove inizia l'iniziativa qua? Io intanto finisco di mettere all of us. Tutti voi, sì. Io ce l'ho per loro. Quindi adesso dovrò cercare. Aspetta, ti scrivo anche. Mi scrivi a me? No, lo scrivo nel mio. Ok. 9. Quasi finito di preparare i mostri. Ok, ho finito di preparare i mostri. Mi serve il blocco note. Ma non posso trasferire l'iniziativa, scriverla qua? Cosa vuol dire? Posso scrivere l'iniziativa sull'omino eventualmente? Sai che c'ha, così per ricordare. Se tu clicchi sopra, c'ha tre pallini. Non le vedo. Non le vedi? No, non le vedi? Devo venire a cliccarli sopra e controllare per ciascuno, quindi me le segno. Io me le segno comunque da parte. Allora, abbiamo un Andrea che è 13, 17. Manca Pietro. 7. Pietro. 16. Ascolta, ma chi era il mezz'orco? Non mi ricordo mai. L'iniziativa è in alto sul centro, più o meno, Pietro. No, ho preso un ticcio. Ma no, ragazzi, io però non vedo niente. Pietro. Non voglio fare il guasta feste, ma non vedo niente. Tu sei il guasta feste. Proprio tutto giorno? Bianco. Prima vedevo la mia icona. Prova a diminuire lo zoom, a aumentarlo. È tutto al minimo, tutto al massimo, niente. Che palle. Aspetta. Ho anche aggiornato. Aspetta, ve lo sto facendo riaggiornare io. Okay. Posso chiedere una cosa? Sì. Come si fa a ridurre le icone di Roll20? Quelle che c'hai sotto? Sì. Deve andare nelle impostazioni. Vai sulla rotellina in alto a destra, My Settings. Ok. E in fondo c'hai l'ultima opzione che c'è Video Player Avatar Size. E metti. Io ho messo Names Only per comodità, poi metti quello che vuoi. Figo, perfetto, fatto. Non vedo di nuovo niente. Che Prova a chiudere tutte le porte. Vedere lo scroll, la scroll bar dove sei messo. In che senso? Questo. Magari hai scrollato tutto in giù o tutto in su, non lo so. No, però è centrato. Ah, questo qua è la chat, ok. Ok, adesso aspettiamo che ritorni. Sì, ditemi se la vedete tutti. Intanto, Rowin mi fa un tiro di storia. Storia? Storia. Allora. Ok. Tu sai, perché sì, è una delle cose che ti ha insegnato il tuo mentore, che ai coboldi stanno particolarmente sulle palle degli gnomi, perché nella loro mitologia il principale rivale del loro dio maggiore, diciamo, è una delle divinità degli gnomi. È una delle divinità degli gnomi. Ah, che bello. Ragazzi, io sono fottuta. Allora, un attimino. No, è allora, lei che lo dice, scherzando. Andiamo ad ammazzarli tutti, vedi, adesso sono là, tutti pronti. Quanto è il quadratino qua? Quadratino e 5 piedi. Ok, sta caricando. Quindi 120 pagine. Piedi, quanti sono? Uno, due, sono alcune. 120 diviso 5 fa, oddio. 12, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I primi ci arrivo. I cespugli fanno da intralcio. I cespugli sono difficili da attraversare, ma sono relativamente bassi. Cioè, i coboldi riuscivano a nascondersi dietro perché sono comunque creature piccole. I cespugli sono infiammabili. I cespugli sono verdi, quindi non sai quanto prendano bene come fuoco, però puoi provare. Volevo domandare una cosa. I coboldi, ok, ci hanno visto, ma hanno visto per bene le nostre fattezze? Non sai valutarlo così, cioè loro stavano guardando la strada, vedendo che si avvicinava qualcuno, ed erano pronti a tendere un agguato a chiunque si avvicinasse. Quindi vedervi vanno visti. Da lì a... Sì. Cioè, vedono chiaramente che tu sei più piccola degli altri. Ok, ma se io tipo usassi Disguise Self per aumentare di poco e diventare un hobbit o qualcosa del genere? Puoi provare. Un okay. Ci siamo tutti. Sono riusciti a entrare tutti. Io vedo i token, non vedo la mappa, pazienza. È importante che vedo dove a chi avvicinarmi in teoria. Oh, non so. Ah, dunque. Cioè, io sto guardando sul mio e su quello di mio fratello, e entrambi ce l'abbiamo la roba. Io sì, ma infatti sono io. Niente. Che browser stai usando? Chrome. Non dovrebbe neanche essere. Comincia andare. Dai, allora, Pietro, sei il primo. Di 6 cubetti, giusto? Quadrati. 6 quadretti, sì. E sono... No, aspetta, sei un nano, 25 piedi, 5. Vado su di 6. No, 1, aspetta. 25 piedi, tipo muovere 5 quadretti col nano. Ah, ok, 1, 2... Dov'è la velocità? 4, speed 30. Perfetto. E poi... Questo qua dritto a me posso prenderlo col giavellotto? Questo aspetta, è lontano. Devi dirmi il range del giavellotto. Esatto. 30-120 tipo. 30-120. Allora, 30 sono 6 quadretti davanti a te, quindi fino a qua potresti colpirlo normale. Entro 120 con svantaggio. Quindi dovresti fare un tiro con svantaggio per puoi provare a fare un tiro con svantaggio per colpire. E puoi provare a colpirli tutti tirando con svantaggio, cioè uno qualunque. No, di che allineamento sono? Che impediscono la visuale in sto qualche modo o erba? Scusa? Questa parte verde qua. Sono i cespugli dietro cui si nascondevano e voi li avete visti, non danno copertura fondamentalmente. Se benissimo. Questo cazzo, salve. Dunque, Pietro, vuoi fare qualcos'altro oltre a muoverti? No. Ok. Vuoi tipo trattenere l'attacco nel caso si avvicinino? Fate barriera alla gnoma. Ah, ok, sì, va bene. Ok. Quindi se ti entrano in range, se un nemico ti entra in range, lo attacchi col giavellotto, giusto? Va bene, ma sì, loro sì. Non possono farmi barriera, non sanno. Solo io so. Gabro, tocca a te. Una cosa, di che lineamento sono i coboldi? Non sai, puoi provare a fare un tiro di... In realtà però se faccio... Penso che se fossero buoni o cattivi, ma Pietro dovrebbe sentirlo automaticamente per classe. Non so se ce l'ha già l'abilità. Mi pare che abbia già Sense Good, Sense Evil. Divine Sense. Devi usare un'azione sì, ce l'ho, per devi usare un'azione per attivare la cosa. Ah, e, okay. Ed è per cose molto forti, cioè se ci fosse un demone lo percepirebbe quel okay. tipo di livello di malvagità. Se ci fosse un demone penso lo percepiremmo tutti che è malvagio. Sì, però se fosse mascherato da un'illusione per dire potrebbe provare a fottervi, ma non a fregare il paladino. Ok, dunque i cespugli sono bassi e non danno intralcio. Il nano intralcio. È basso e non dà intralcio. La scarica Eldritch 30-120 anche quella? O è 120 soltanto? È 120 mi pare. Dovrebbe essere 120 soltanto. Aspetta che... Quindi, sicuramente non ha due tipi di distanza. No, mi pare che sia 120 e basta. Anche a me pare. Quindi entro i 120... Dentro 120 puoi attaccare senza problema. E 120 sono 24 quadretti. Se te col tasto destro, 120, mi pare sì. Col destro clicco no, tiro. No, aspetta, c'è il righello. Mi pare sulla sinistra c'è il righello. Ecco, sulla sinistra c'è il righello per le misure. Righello, oh benissimo. Poi clicco a caso e lo puoi usare 60, 70, 85, 90, 100. Arrivi più o meno tutti. Cioè, li becco forse, tutti. Forse tranne questo qua. Come si usa questa cosa? Sulla sinistra c'è il righello. Forse tranne questo qua. Gli altri dovresti beccarli tutti. Questo qua sotto qua? L'ultimo qua. 125, questo è fuori. Quello lì è fuori, gli altri li becchi tutti. Gli altri li becco tutti. Dunque, facciamo così, attacco... togli sto righello. Come si toglie? Ti è girato. Devi andare a cliccare sulla freccetta. Freccia. Facciamo. Aspetta, vediamo come sono armati questi coboldi. Sì, vedete che hanno delle frombole. Quindi attaccano a distanza. E dei pugnali alla cintura. Ok, va bene, allora io impugnando il mio bastone mistico alzo la mia manina sinistra che si tinge di luce viola e gli tiro una scarica edrice a questo qua. Ok, adesso aspetta che adesso, credi che adesso io sappia, è di qua, aspetta che piano piano ci arriviamo, light, crossbow, edrice, bla, basta che clicchi questa, vero? Sì. 11, dimmi qual era, scusami. Questo qua. Okay. Il tuo raggio parte, brucia alcune foglie dei cespugli che c'hanno lì davanti e passa vicinissimo alla testa di questo coboldo che all'ultimo momento si scansa e vedi che ti punta come l'origine di questo attacco. Ma visto che l'altro è dietro in aretta, non c'è possibilità che prenda l'altro? No, anche perché considera che un quadretto è un metro e mezzo. Cioè qua, ok, la creatura occupa tutto il quadretto, però non è grosso un metro e mezzo sto coboldo, poverino. Ah, ok, sì. Boiler. Ma tutti i nostri propositi di diplomazia sono andati a farsi fottere? Sono coboldi, Sì. Ok. Sì, queste qua siamo razzisti. Sono delle... Cioè, sono dei... piccole creature che sembrano un po' dei coccodrilli, un po' dei draghi su due piedi armati. Tipo i banga di Final Fantasy. Ok, A cui non ho Mattia. mai giocato. Allora, io esco il mio martello e incazzoso come una bestia. Vado. Quanti sono i quadretti già che posso muovermi? Sei, te ti puoi muovere di 30 col mezz'orco, quindi 30, 30, 30, 30, 30 e così via. Ok, allora Comunque vado. c'è un problema, se posso. Dimmi. In pratica, di default, Roll20 non tiene conto dei quadretti medi. Nel senso, hai presente, non so se hai presente nella 3.5 Il che... movimento diagonale, dici? Esatto. Qua il movimento diagonale costa 1 con il movimento orizzontale e verticale, ma l'ho impostato io per essere così. Ok. Non sa di fare radice di quadrata di cateti ogni volta, se non è più finito. No, No, ma c'è l'opzione c'è automatica. l'opzione per fartela calcolare Ah. automaticamente così, sì. Però io sono Ok, abituato a va bene. giocare con i quadretti che costano 1 e boh, mi ci trovo meglio. Anche perché sennò dovresti stare lì a vedere, ok, quando sei in diagonale puoi, non puoi attaccare, tutte queste cazzate lì, allora. Sotto il prossimo, riesci a fare Comunque, qualcosa, Mattia? No. Mattia. No, no, io non sono abbastanza vicino, se non Ok, sbaglio. fai Aspetti nel tipo caso si avvicinino. cosa Sì, difensiva, quelle robe là, sono. cioè. No, mi metto il martello in mano e niente, Carica appena l'appello arrivano per farlo. l'attacco. Ok. Andrea. Ok, allora io mi muovo in avanti dritto per dritto di 25 piedi. Aspetta, devo cliccare questo. 5, ok, e mi paro con lo scudo, mi metto tipo in dodge o qualcosa del genere. Uso la mia azione per mettermi sulla difensiva visto che hanno le fionde. Ok, ora tocca ai coboldi. Questo coboldo, che non riesco a segnalarvi perché ho sbagliato tasto, questo coboldo va ad attaccare il barbaro che gli si è avvicinato. Ora, visto che stavi trattenendo la tua azione, lo attacchi prima te, Mattia. Ok. Attacco col mio martello dall'alto verso il basso in testa. Oh. Sì, l'hai Con tutta la colpito. cattiveria di cui dispongo. La tua martellata non lo prende bene in testa perché all'ultimo fa un mezzo passo per spostarti, ma comunque gli tiri una botta sulla spalla sinistra e lo sbilanci. Ora, se io smetto di cliccare tasti a caso, posso anche sentire quanti Perfetto. danni hai fatto. E gli ha fatto 4 danni. Sì. Ha tirato malissimo per i danni. Il prossimo coboldo è questo qua, che prova a tirare a Mattia con... Aspetta, fammi vedere se sei vicino abbastanza per picchiarti. Ma l'altro non Ah, attacca. già, l'altro ti attacca adesso, aspetta, aspetta. Anche lui poi. Ok, allora, quello lì ti attacca. Con il suo coltello prova a pugnalarti, ma la tua classe armatura è sicuramente più di 11, giusto? Sì. Ok, quindi dopo essere stato colpito, prova comunque ad affondare col pugnale, ma è sbilanciato e arriva proprio corto. Il suo amico prova a venirlo ad aiutare e ti attacca anche lui col pugnale. Stessa cosa. L'altro ha attaccato corto, questo qua ha provato ad attaccarti su un fianco, ma tu riesci a scansarlo senza nessuna difficoltà. Questo qui. Perfetto. Ok. Si avvicina un po'. 1, 2, 3, 6. Qui. E attacca Gabro con la fionda. Quindi prova a tirarti un sasso dalla fionda. È più preciso dei suoi amici, o almeno sembra esserlo. Ti colpisce su una spalla con questo sasso lanciato dalla sua frombola. Anzi, forse no. Sì. e ti fa scusate, ti fa 3 danni contundenti. Ti è arrivata una sassata sulla spalla sinistra. Questo qua è quello che ho provato a sparare prima. Il loro amico si avvicina anche lui. Lui proverà ad attaccare il nano qua davanti, che se non sbaglio sei te, Andrea. Come funziona il dodge? Il dodge funziona che ti dà svantaggio a chi ti attacca. Da svantaggio? Se non ricordo male. Dodge. Dodge. Prevo aumentasse la tua manuale. Dodge action, sì, under action, 192 allora. Scusatemi. Ogni attacco fatto contro di te fino al tuo prossimo turno ha svantaggio. Ah, ok. Devi superare 18. Hai 18 classe armatura? Sì, 18. Prova a tirarti un sasso, ma prende il bordo dello scudo di lato e rimbalza via senza nessun danno. Si avvicina anche questo coboldo. Questo prova a tirare a Mattia. Anche te vieni colpito da un sasso lanciato da una di queste fionde, che ti fa un danno contundente. Ti prende in testa, ma non c'è nessuna forza, proprio rimbalza via. Okay. Sei in furia in questo momento? No. Ok. Continua l'avanzata di tutti i vari cobolli, facciamo che li faccio che muovere, perché mi sono rotto le palle di muoverli uno per uno. Mi stanno tutti venendo incontro. Questi qua vedono, sembrano vedere che c'è uno gnomo, e quindi alcuni di questi tireranno allo gnomo, però sono molto lontani, quindi tirano con svantaggio. Quanto hai di classe armatura, Ele? Se non sbaglio 11, però controllo, aspetta. Classe armatura 11, sì. Il primo ti manca, arriva, vedi che tira verso di te, però il tiro è corto e il sasso ti rimbalza davanti. Il secondo fa più o meno la stessa cosa, il sasso però ti rimbalza di fianco. Gli altri due provano ad attaccare Pietro. Aspetta, puoi dirmi quali sono i due? Allora, questo e questo, sì. Se riesco a cliccarlo. Hanno provato ad attaccare te. Oh, ok. Questo okay. E questo, ora attaccano Pietro. Il primo ti tira, ti colpisce anche, ma ti colpisce sulla montura e ti fa un po' ridere. L'altro ti manca proprio. 18, cioè, sì, hanno tirato delle cose ridicole, tanto non ti preoccupare. Il secondo ti manca proprio il sasso. Cioè, solo con me fanno danni. Come, scusa? Solo con me fanno danni. Solo con te fanno danni, sì. Se no, hanno fatto un danno. Perché tu sei mezz'elfo. Sei esatto, mezzo antipatico. Sì, la situazione di mezz'elfo in questa campagna è quella che è. Ele, tocca a te. Allora, io provo a tirare un cantrip, un firebolt a uno dei due che mi ha colpito, quello che è più vicino, che aspetta, ora te lo indico. Okay. Che è, aspetta, però, ah sì, 120 piedi, quindi ci dovrei arrivare. Sì, certo. Arrivi a tutti adesso con 120 piedi. Ecco, sì, se sono 70 piedi. E mi pare che ragazzi, i cantrip si tirano, non mi ricordo. Il firebolt sì, ha un tiro per colpire. Tu non ce l'hai okay. Nella scheda il firebolt, se non ho visto male. Tira un ah, no? Fai slash R di 20. No, perché forse non era nel compendio. No, non era nel compendio. Fai slash R di 20 più 5. No. Aspetta. Nella chat. Sì. Sì. Slash più 5, sì. Roll di 20 più 5. Ma tutto attaccato o c'era uno spazio da qualche parte? Va, prova tutto attaccato. Unrecognized. Ok. Slash roll spazio di 20 più 5. di 20 più 5. Ok, ok, eccolo. Ok, 19. L'hai colpito. Tirami anche i danni, che è un di 10. Un di 10. Quindi slash roll di 10. Poi andrei a farle la macro. No. Due. Io come faccio fare? Questo dardo di fuoco parte dalle tue mani e colpisci di striscio su una gamba il coboldo che hai mirato e bruci un po' un cespuglio che c'era lì vicino. Era questo, vero? Era il primo qua davanti. Sì. Okay. Fammi segnare i danni. Ok. Ma io potevo anche spostare. Ah, posso puoi aggiungere che. Puoi ancora spostarti. Ah, posso ancora spostarti. Lei abbia 5 di movimento soltanto. Questo è un attimo. E posso aggiungere che contemporaneamente comincio a tirar fuori la daga? Sì. Ok. Select move. Ok. Sì, basta che la prendi e la trascini. Sì. Gnomo movement 25. Io mi. Ma che cazzo fa? Che sposto a fare? Your movement speed is 5 quadretti. Ma che mossa inutile. Vabbè. Puoi, cioè, non sei costretta a muoverti. Sì, sì, lo so. Era giusto per non restare. Perfetto. Tocca a Pietro. Ok, Pietro, io vado avanti. 1, 2, 3, 4, 5. Puoi arrivare un giavellotto. Se vuoi. Ah, fin qua? Sì, perché c'è il coso. Con quale tasto vedo le distanze? Sulla sinistra hai con diverse icone. Con quale tasto vedo le distanze? Sulla sinistra hai diverse icone e una è un righello. Lo clicchi e poi trascinando fai il righello. Così, esatto. Bello, bello. Però un giavellotto a questo qua. Ok, fammi un giro per colpire il giavellotto. Che non riesco a segnalare, però è quello dritto davanti a me. Sì, sì, sì, ho capito. Devi deselezionare il righello per segnalare di nuovo. Ok, tiri tu questo giavellotto. Questo coboldo che ha due passi davanti a te fondamentalmente e prendi anche un po' di rincorsa perché comunque ti stanno un po' sul cazzo i coboldi a quanto pare e lui era distratto nel tentativo di attaccare Mattia e il tuo giavellotto gli si pianta proprio nella spalla e rimane piantato tipo la scena di Ace Ventura che ce l'aveva nelle gambe però okay. Gabro. Oh, tocca a me. Dunque, la gnoma che ho davanti, l'intralcio? Sì, no, non ti ha l'intralcio. Mi sono messo davanti al cazzo? La gnoma se è un intralcio, è piccola. Pietro ha detto qualcosa, ma non ho capito. Vabbè, Pietro vuole tirare fuori la spada. Ah, ok, sì, certo. Che ho tirato bello spadone. Ok. No, nel senso, se io attacco il coboldo, lei non è un intralcio. Lei non è un intralcio, no. Se il coboldo attacca me? Neanche. Lo posso usare come scudo umano? No, che bastardo. Scudo umano era un gnomo. Vabbè, sei un neutrale lui, no? Scudo, sì, proprio uno scudo. Se lo tiri su come scudo, devo pur difendermi in qualche modo. Allora, siccome questo antipatico mi danno 3 danni, cioè... allora aspetta un attimino. Non riusciamo a capire di che orientamento politico siano questi coboldi, vero? Dai, loro stanno facendo il possibile per uccidere. Il movimento 5 stelle. Cioè, nel senso, siccome Madonna, avrei allora proprio... protezione dal bene e dal male, come incantesimo, che mi darebbe un attimino un po' più di resistenza, che potrei farlo. Che potresti farlo, però fammi capire, sì, capire esattamente se ne vale la pena di farlo. Aspetta che te lo clicco così compare nella cosa. Ah, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Ah, ok. Energy, dead. Good. Questi sono qualcosa di questo? No. Non sono celestiali, non sono elementari. Sai che sono comunque umanoidi queste creature? Non sono di quei tipi lì. No. Incantesimi. Ah, ok. Un altro, accendiamo di nuovo la mano di Viola e tiriamogli un'altra Eldritch. C'è sempre questo qua che se l'ha presa con me. È cattivo. Vai con la mano tamarra. Io non ti ho fatto niente, e tu invece continui a attaccarmi. L'avrò colpito adesso. Sì, devi dirmi qual è. Il primo davanti a lui. Questo, quello che ce l'ha con me. Ok, perfetto. Il tuo raggio questa volta lo prende in pieno volto e. Quando non guardi, gli stacca la testa. Quando guardi, che levi la mano da davanti a te, vedi che questo kobold non ha più una testa in questo momento. Oh, finalmente qualcosa di utile. Boom. Cadavere di kobold. Questo non fa un effetto paura agli altri, una penalità agli altri, dato che gli ho appena staccato la testa uno dei loro. Puoi provare a farmi un tiro di intimidazione, se vuoi. Intimidation, vai. 11. Li vedi che sono un po' scossi, almeno quelli che erano subito lì vicino, però capisci anche che la morte è una cosa così comune nella società kobolda, soprattutto alle mani di gente ben preparata che cercano di aggredire per la strada, che non ci stanno facendo così tanto caso. Cioè, quindi sono anche deficienti, cioè per loro è normale essere uccisi dalla gente che passa per la strada e continuano ad attaccare. Sì, diciamo che si aspettano di avere anche delle perdite, è per quello che vi hanno attaccato in netta superiorità numerica. Ah, ok. Va bene, ok, non posso fare altro, vero? C'è ancora una Ma i kobolds parlano? Puoi muoverti. I kobolds tipo... parlano, sì. Ah, ok. Usare questo herbalist kit per, non so... cercare di recuperare un po' di questi punti con l'herbalist kit? No, l'herbalist kit niente. Non per quello, cioè è una cosa tipo che ti siedi e c'hai un tipo mezzo laboratorio, c'hai il mortaio. Ah, okay. Serve per creare le medicine, non è una medicina lui. Esatto. Bolster azioni, later armor, quarter staff, dagger, ok, quindi non posso. Non ho nessuna possibilità di usare anche la balestra o tirare un'altra eldritch, vero? No, in questo turno no. Quindi che faccio? Mi metto in posa difensiva, mi accuccio dietro la gnoma, così... E... ok. Ti accucci lì, però lei non sta proprio ferma, quindi non che sai quanto ti stia coprendo. Il coraggio dei mezzetti. Neanche a dire, sai... un obbligo grassottello vanno bene ad essere razzisti, cazzo. Madonna, cioè, è un mezzetto che ha 5 punti vita, vorrei ricordare. Ma io posso uccidere Gab? Puoi sicuramente provare. Lo addormento. Dai, Mattia. Vabbè, altro non faccio, quindi vai, tocca a me. Sì, Mattia. Allora, Il sassolino che mi hanno tirato in testa mi fa entrare in rage. Ok. È così poco. Mazza, che incazzatone. Hai perfettamente ragione. Tu non fotti come Zorco. E niente, quindi sono in rage, tutto incazzoso, sbavo. E ritiro una botta al kobold che c'ho davanti. Quello che ho colpito prima, quindi sì. In teoria questo. Questo qua. Tiro il maul normale e poi c'è da aggiungere più 2 i danni. Più 2 ai danni, sì. Fai che magari metterti una linea lì per i danni da... Wow. Marmellata di kobold. Si è sentito? Marmellata di kobold, fondamentalmente. Cioè, gli tiri di nuovo dritto per dritto, dall'alto verso il basso. A 2 mani. E senti proprio splat. Un bel rumore. Andrea, proviamo a rintimidirli di nuovo. Cioè, c'è anche un mezzo grido malamente, tutto bavoso, eccetera. Non è che si rispaventano, no? Te ne appoggio sulla scrivania. Mattia, se vuoi, vado. Sì, tutto lì, tutto rosso. Intimidito io. Urli. Non sono ancora convinti. Però non sono ancora. Vedi che quello che è vicino di te sta un attimo ripensando sulle scelte della sua vita. Però gli altri. Io vado su questo qua e cerco. È affiancato. Tiene un attimo poco credibile. Con la mia ascia movimento orizzontale perfetto e cerco di tagliargli la testa. Vai. La testa è ancora attaccata. La testa è ancora attaccata. All'ultimo momento tira su il coltello e lo prendi sulla mano che tiene il coltello, spaccandogliela fondamentalmente. Quindi la mano che stava usando per parare gliela hai spaccata e gli tagli pure la faccia, però non l'hai decapitato e non è ancora morto. Ah no, questo qua era quello che era stato colpito da un giavellotto. Quindi gli spacchi la mano, gli tagli la faccia e va giù. Con la spalla. Spacchi bottiglie. Tutto. Il famiglia. Quindi Andrea, coboldi. I coboldi no, sono... Non è che cominciano ad avere paura e no, eh. Sono più stupidi, cioè, o più convinti di quello che... Uno è saltato alla testa, uno è stato spappolato, uno... Cioè... E diciamo che pensate che se per davvero lavorano contro un drago, stanno valutando il peso di restare qua e provarci piuttosto che tornare da un drago e dire che sono scappati, e stanno scegliendo di rimanere qua e provarci. L'ultimo cerchiamo di prenderlo vivo così per interrogarlo. È quello che pensavo anche io. Infatti stavo, sì, come siamo cattivi e lo torturiamo anche, vero? No. Gli facciamo sputare la verità in qualche non altro siamo modo. Siamo qui per questo. Perché dobbiamo torturarlo? Siamo allora, buoni, e tu sei neutrale. Te sei neutrale, diventi subito cattivo. Tu dici di essere neutrale. Noi ti facciamo gli diciamo, o parlate subito o cominciamo a torturarvi. E allora vediamo che magari parlano subito. Ma sì, ma abbiamo anche il charm person. Il primo coboldo lì davanti si avvicina ad Andrea e prova ad attaccarlo col coltello e ti colpisce in pieno su una placca dell'armatura, proprio pa! fa rumore. Sì, fondamentalmente fa rumore, però lui per un attimo è convinto di averti fatto male. Io fingo di essermi fatto malissimo. E l'altro, quest'altro qua, va da Mattia, probabilmente convinto che il fatto che tu abbia spiaccicato un suo amico sia stato un caso, e prova a colpirti con un coltello, e tu non hai un'armatura che ti protegge, però anche se ti taglia con questo coltello te ne freghi, gli sorridi e continui. Questi altri coboldi continuano con le loro fionde. Questo qui è quello che prima se l'era presa con la gnoma e continua a provare a prendersela con la gnoma. Di nuovo tira troppo corto, probabilmente distratto dalla morte dei suoi compagni lì davanti. Questi altri qua dietro, visto che ci sono due nani, provano a tirare a quello che non è ingaggiato adesso con il loro compagno. E stanno facendo una figura orribile, se devo essere sincero. Ti piovono sassi attorno, Pietro, però nessuno ti riesce a colpire, perché comunque quando ti prendono ti rimbalza sull'armatura e basta. Ele. Dunque, mi ragguagliate su come erano andati i cosi di intimidazione? Li abbiamo falliti tutti. Sì. No, sì, ma intendo dire, erano riusciti a far qualcosa? Perché mi sono persa, mia sorella mi ha chiuso fuori dal balcone, quindi... Ti ha chiuso fuori dal balcone? Sì, ero uscita a fumare, quella cretina mi ha chiuso fuori dalla corda. Ok. Scusate. Fondamentalmente avete provato, dopo averne spiaccicati o decapitati, a intimorirla, a urlargli contro, piuttosto che... Ma vedete che magari hanno anche paura di voi... Ma c'è qualcos'altro che li spinge a continuare. Okay. Era quando dicevamo di torturarli dopo. Il mio personaggio ha qualche idea di quale possa essere una creatura che intimorisce particolarmente i coboldi? Un drago? Un drago. Un drago. Ah, bene. Ad esempio, allora... Ecco. Facendo il 2 tra le cose drago. Che spingono gli ultimi giorni. Ad esempio. Ok. Quindi io posso anche fare un... che cazzo era? Minor Illusion? Per creare un suono? Minor Illusion per creare un suono, sì. Ma non è interessante. Come? Con Minor Illusion non so quanto sarebbe credibile come drago. Magari un drago distante, magari fa finta di essere distante così il suono è minore. Può provare. Però c'è lo stesso. Come dice qua? dice se aspetta, non ho capito qual era il problema. Minor Illusion ha dei limiti su quello che puoi creare come illusione. Per cui non puoi fare un ruggito di drago come se fosse lì. Puoi creare un'immagine, un suono. Però dice, perdonami, dice se crei un suono, il suo volume può variare da un sussurro a un urlo. Sì. E poi include anche un ruggito di leone. Sì. Dici che comunque non raggiunge il... Un leone e un drago sono due cose molto differenti. Ok. Puoi provare a far credere che ci sia un drago lontano e vedere che effetto possa avere questo. Sì, dai. Ok. Vediamo. Che devo tirare? Tu niente. Niente. Tu fai sentire questo ruggito di drago, come immagini sia un ruggito di drago che arriva, che tende ad arrivare da lontano, dalle vostre spalle. Vedi che i coboldi gli si rizzano le orecchie e cominciano a guardarsi attorno cercando di capire da dove arrivi. Non sai che, cioè non riesci subito a capire che effetto possa aver avuto. Ok, e mi posso spostare giusto perché non mi piace stare ferma. Certo. Forse invece sono arrivati, pensano che siano arrivati rinforzi. Infatti era quella la mia paura. Sì, continuiamo. Stiamo facendoci tanta paura, sti coboldi. Che qualcuno ha detto qualcosa, Andrea ha detto qualcosa, ma io non ho sentito niente. Comunque sti coboldi non è che ci stiano dando troppi problemi finora. No, infatti. Non si parla quello che è a posto con una super armatura e mi sono preso già 3 danni. Vabbè, ma hanno quando è lamentoso sto mezzo elfo. Okay. Vai, Pietro. Quando gioco io, aspetta. Dai, paladino. Ma per allora spero di aver acquisito qualche incantesimo per cucire la bocca alle persone. No, ti sei messo tra due, no. Ti ha messo tra due, poi lui ha cerchiato. Ti sei autoaccerchiato. Ma così sì, cosa diventa? Sono coboldi e lui ha un'armatura con. No, ma con lo stesso fondo adesso crepa. Te lo prendo e tiro una spadata. Tiro una spadata. Una spadata e pezzi di coboldo volano. Cioè, tipo, metà del coboldo cade direttamente su Brasator e l'altra cambia metà piano. Salta per aria. E ti cade ai piedi. Così fidata. Era quello sotto? Sì. Ok. Fai un po' di intimidazione a vedere se cedono e... Va bene. Vanno a fanculo. Aspetti, No, ce l'ho pure a 4. 14 intimidazione. Succede niente. Vedi che stanno tutti guardando lì perché hanno appena visto un loro compagno mascolino andare a pezzi. Cioè, dalla barba di questo nano viene fuori un ruggito che è quasi forte come l'illusione del drago. Cioè, proprio... Però... Però i coboldi sono ancora lì e non sembra che stiano cercando di scappare. Gabro. Ok, tocca già a me. Allora riproviamo sempre con la nostra bella manina Tamar con la luce viola contro questo. Ok. Proviamo, vediamo cosa succede. Blast. Colpisci. Sì, l'hai colpito. L'hai colpito bene sul petto. E dal tuo raggio viola gli rimane una bruciatura scura sulle scaglie del petto. E capisci che sta barcollando, cioè proprio all'ultimo respiro questo coboldo. Oh, qualcuno gli tira una sassata in testa e ce ne togliamo un altro dai piedi. Mattia. Allora, vediamo un po'. Ah, 35. Ah, 30. Io vado. Aspetta che mi prendo. Vado non da quello che ha colpito Gabriele, ok, ma quello dopo. Ah, quello lì vicino a te, te ne freghi? Sì, tanto c'è Pietro. Ti fa l'opportunità. Di opportunità. Ci prova. Okay. Però ti vede partire e prova a colpirti col coltello mentre te ne vai, ma te lo ignori e continui ad andare. Perfetto. Si prova lo shot, il one shot. Su Allora, questo qua. sempre in rage, sì, quello davanti a me. Gridando, sempre dall'alto verso il basso. La tecnica che hai imparato con i ratti l'altra volta. Esatto. Però con i coboldi funziona meglio che con i ratti. Questo qua non lo prendi in testa, lo prendi su una spalla come il primo, però lo prendi molto bene e senti proprio il crunch di spalla, clavicola e cassa toracica che si frantumano sotto il tuo martello. E questo gli cade Gente che grida indietro. Omran. Esatto, e batte pure la testa contro la testa del martello dopo, cioè. Ciao Ci sono Kobold. granate. Tutto secondo i piani. Andrea. Ok. Allora, io Perché non c'è 1, 2, incalzare 3, in sto 4, gioco? ok. Aspetta, aspetta, che già non si Sono sente verso niente quando questo parla lui. qua e lo attacco con la mia ascia, saltando e cercando di prenderlo in testa. Probabilmente Salti. E col fatto che se sei saltato, questo ti vede proprio arrivare e si scansa, e la tua asciata gli va vicino e fai a pezzi un po' di cespuglio. bene, bene, mi stanno sul cazzo i cespugli. È giusto così. Coboldi. È momento dei coboldi. Questo coboldo qua si è appena fatto scappare Mattia e prova ad attaccare questo nano con lo spadone che sta frantumando i suoi amici. Te non ti sei neanche ancora girato. E lui quindi è convinto di avere il vantaggio, ma gli rimane il coltello per un attimo incastrato tra le scaglie della tua armatura e poi si ritira. Ma è una cotta di maglia, non ha distratti. Scusa, rimane battuto contro la tua cotta di maglia, non riesce a passarla. Perdona. Bisogna Quest'altro essere precisi con Pietro. se la prova a prendere col nano che è arrivato saltando, convinto di vederti sbilanciato. Ma te hai rovinato i cespugli e cose del genere, e hai tirato giù dei rami che poi si rialzano e lo spingono via, quindi non riesce ad attaccarti. Eh sì, questo coboldo qua è soprannominato Benny Hill dai suoi compagni, evidentemente. Gli altri due dietro non vogliono avvicinarsi e quindi attaccano il mezz'orco enorme che si è avvicinato con le loro fionde. E ti colpiscono anche bene, ma col fatto che tu sei in furia, ignori questi sassolini che queste piccole creature ti stanno tirando. Ele. Oh, dunque, il coboldo mezzo morto dov'è? Eccolo, È quello davanti a Brasator. sì. Questo. Questo? No. Non riesco a Questo qua, puntare. guarda. Ah, ok. E proviamo a farlo fuori, insomma. Ah, no, no, aspetta, io stavo facendo quell'altra cosa prima. Se io casto un'altra cosa, il suono smette, no? Mi pare di sì. Mi Sì, pare che sia perché concentrazione. No, se hai dice tipo di concentrazione, nuovo. tu puoi mantenere la concentrazione su quello e lanciare un altro incantesimo che non sia concentrazione. Ma non è concentrazione, quello tu puoi decidere di farlo interrompere. Ah, ok. Ha sortito effetto? Non sembra che li abbia spaventati, ecco. Si sono guardati intorno e poi hanno ripreso ad attaccarvi come se ci fosse il boss in incognito che li guardava. E quindi se aspetta, Silent Mage come cacchio si usa? Cos'è? Silent Silent Mage. Mage. Sight Image crea un'illusione che non può parlare e che sta lì, se non ricordo male. Forse ma è sempre con la concentrazione, giusto? Quindi smetterei con quell'altro. Ma non è a concentrazione, dura un minuto o fino a che non la vuoi interrompere. Ah, ok. Invece, beh, allora è a concentrazione 15 piedi cubi. Quanto sarà grande 15 piedi cubi? 15 piedi cubi sono al massimo 4 metri e mezzo di lato. Quindi un quadretto. Ah, quindi potrebbe essere. No, dai, no, troppo lontano. Troppo, sono fino a 3 quadretti. Casino. Sono 3 quadretti. Puoi creare un'immagine di qualcosa di grosso. Lontana, un po' lontana. Fino a 60 piedi da te come posizione. La dimensione è qualcosa che stia in un cubo di 15 piedi, quindi più o meno di 4 metri e mezzo. E non si può muovere, se no, però non lo si puoi può muovere usando la tua azione. Cioè tu rimani concentrata e dici ok, lo faccio muovere, però non può fare suoni. Non puoi mettere e suoni. Non può ingrandirsi contemporaneamente, ingrandirsi o diventare... No, puoi alterare la sua apparenza... Sì. Ah, ok, quindi posso creare insomma un drago che sta arrivando da lontano e che viene dalle nostre spalle. Ma lo vedono piccolo. 60 piedi. Eh sì, perché pian piano si avvicina. No, ma cioè è un'immagine che la vedi che è vicina. Ah, ok, la vedi che beh, insomma. Cioè, nel senso, okay, la prospettiva a 60 piedi sono 20 metri, cioè lo vedi che è qualcosa lì e non è una cosa. Beh, potresti fare solo la testa. Solo la testa che viene fuori dai rami, dagli alberi, così non pensano che il resto del corpo sia nascosto. No, ma sono cespugli. Mi sa che l'unico albero... Non ci sono alberi vicini. Quelle cose un po' più grandi sono alberi, ma non è che siano... Ma non ci puoi nascondere un drago. No, scusa. Non può creare un'illusione su se stessa di essere mezzo draconico. Può creare un'illusione nel suo stesso spazio, però lei non sarebbe invisibile nell'illusione. No, ma lei diventerebbe e può trasformarsi in un mezzo draconico, cioè un drago. No, in modo da dirgli, guardate che anch'io sono una draga, quindi... No, perché anzi, mi sa che se passi in mezzo all'immagine silenziosa tu fai capire che sì, lo vedi è che qualcosa ci passi di in mezzo. Illusorio. Sì. Per cui no, dai, niente. Allora proviamo a togliere davanti quel coboldo stupido con un altro fireball. Qual è il coboldo stupido? Che è quello lì che sta mezzo morto. Ok. Perché penso di fare. Io non ho ancora capito in realtà quanto danno. Cioè, per esempio, un dado da 10 è alto come cosa oppure basso? Da 1 a 10. Vuol dire fare che da 1 a 10 è molto buono, 1 fa un po' schifo. Ok. Ok, dai, proviamo quello lì. Non ho idea di quanti punti mi sono rimasti. Allora, come prima tiro per colpire un D20 più 5. D20 più 5. E il danno è un D10. Ok. Spari dalle dita un altro dardo infuocato, e però questo coboldo è ancora un po' sbilanciato dai rami che gli hanno sbattuto contro, quindi si sposta e non è dove pensavi che sarebbe stato, e il tuo dardo fa una piccola esplosione infuocata contro uno di questi cespugli. Ok. Pietro. Mi giro e lo picco così. Sì, è più che sufficiente. Avevi tagliato prima il suo amico, questo qua ha cercato di punzonarti col suo coltello e tu ti giri e nello stesso movimento gli porti via un braccio e per lo shock questo cade privo di vita. Gabro. Oh, dunque, questo è a portata visiva, nessuno intralcia? Sì, anche gli altri. Bisognerebbe anche iniziare a cercarne uno, perché magari poi scappa quando ammazzo l'ultimo. No, non questo ce lo prendiamo. Io c'ho sleep, quindi per un minuto resta fermo. Insomma. Ah. Perfetto. E allora attacco contro questo, la mia solita Eldritch dalla manina viola. Pronti al colpo, via! Quale, scusa? Che porca miseria! Mamma! Non ho capito chi stai attaccando. Questo. Questo. Okay. Il tuo raggio parte, ti senti sicuro di questo, perché prima negli ultimi turni hai fatto parecchi danni e quindi tiri con un po' di sufficienza. E passa di fianco al cobordo bruciando l'erba vicino sui piedi. Non credo bruci, perché è forza, comunque va bene, il tentativo c'è stato e il danno era anche bello, era 8 danni, che miseria. Va bene, Mattia. È andato. Mi avvicina sempre incazzoso. Aspetta, no, vabbè, continua ad andare dritto per dritto. Ok. Ah, ma l'orco non si, il mezz'orco non si ferma, vero? Se, visto che è in frenesia là. Cosa vuol dire non si ferma? No, sì, mi posso fermare. Ah, ok, quindi non è che ci ammazzi anche l'altro coboldo, sennò ti addormentavo a te. No, non dovrei, cioè, non credo. Non credo debba andare avanti. Il coboldo da cui ti sei allontanato, mentre era ancora lì che era mezzo sbilanciato, si allunga verso di te col suo pugnale, perché ti vede che ti allontani e ti riesce a colpire. Subisci 2 piercing, però visto che sei in furia lo dimezzi, quindi 1. Ti ha fatto un graffietto sulla gamba. Mi ha fatto incazzare ancora di più, bravo. Fai il tuo attacco. Attacco cazzato con una bestia. 20! Mazza, gli hai ammazzato questo brutto. Lo colpisci, sei arrivato anche in corsa e non ti sei fermato davanti a questo coboldo. Cioè, tu sei arrivato, stai facendo i passi, bam! Stavi giocando a golf col coboldo, fondamentalmente. Lo spari via, stramazza a terra con il torace completamente in poltiglia. E con un po' di budella di qua e di là. Benissimo. Se c'è dell'intestino me lo metto intorno al collo. Forse in voi ne addormenterei uno prima di uccidere il penultimo. Eh no, perché dura solo un minuto l'incantesimo, per cui sono, insomma, deve turni, essere liberi per legarlo, via. Ma com'è? Potete poco uccidere l'ultimo. Provo a tramortirlo, non ti serve neanche lo slip, dai. In effetti. Sì, puoi dirmi, faccio danno non letale e lo metti a capo. Se invece volessi buttarmi su di lui tipo placcaggio da football americano. Poi mi fai un grappolo. Se la scudo non è che faccio un placcaggio. Prova di lotta, no? Prova di lotta. Ah, okay, tu certo. Sei di una taglia superiore, perché questi sono piccoli, quindi hai vantaggio. E via. Ma tocca a me? Non lo so, Mattia può ancora del movimento, se vuole avvicinarsi ancora a qualcuno. Sì, mi avvicino a questo, all'ultimo. Cioè, e, poi, e poi tocca ad Andrea. Ok, io cerco di... tramortire quello che ho davanti senza ucciderlo, quindi magari tipo un colpo di scudo verso la testa o cose di questo tipo. E cosa devo fare? Un attacco? Cerco di non ucciderlo, colpo di scudo. Colpisci col manico dell'ascia, fondamentalmente. E gli dai il pomello in mezzo agli occhi e questo giù, puff. Esteso lì. Bene, io mi metto sopra di lui. Fammelo. Lo usi come... Sappiamo che lì ce n'è uno. Tocca all'ultimo coboldo rimasto, che è un po' in preda al panico, ma prova comunque ad accoltellare il mezz'orco che è vicino. E riesce a colpirti? E come quello di prima ti aveva fatto un graffietto sulla gamba, questo ti fa un graffietto sugli addominali, fondamentalmente, quello che per una persona normale magari sarebbe stato anche un taglio. Te sei un barbaro in furia e questa piccola lucertola davanti a te non ti fa nessuna paura. Hai subito appunto un danno già dimezzato, un'altra cicatrice da mostrare. Esatto. Ele. Sì, ma non dire che sono stati dei quadretti. Io di quanti quadratini posso fare? Puoi muoverti di 5 quadretti se vuoi fare, puoi fare ancora qualcosa, se no ti puoi muovere di 10 quadretti. 2, 3, 4 e 5 sarei qui. E... ma posso provare ad aiutare con il... a fare fuori il, l'ultimo coboldino con il Firebolt. Mm-hmm. Allora, vediamo se me lo ricordo da sola. R di 20 più 5, giusto? Sì. Oh sì, l'hai colpito. E poi R di 10. Che cazzo. L'hai colpito però, eh. Sei convinto di... l'hai colpito bene, effettivamente, però probabilmente non eri molto concentrata sul tuo incantesimo, per cui vedi appena appena una fiammella, come fosse un fiammifero che gli arriva addosso a questo coboldo. Ok. E muore. E no, non muore, non ancora. Maledico e passo il turno. Pietro. Tiro 25 si puoi muovere col nano. Tiro un giavellotto dai davanti. Ah scusa, allora qua e lo tiro da qua. Passando sopra ad Andrea e al coboldo mezzo morto. Esatto. Dai, tira il giavellotto. Sì, ho sbagliato, che cazzo. Arrivi e visto che ce l'hai lì sto coboldo, tiri il giavellotto in pratica dall'alto verso il basso e glielo pianti davanti proprio in mezzo ai piedi, ma davanti lì. Gabro. Non sono ancora morti, porca miseria. Ce n'è ancora uno. Tu non ti sei mosso da là. Ma guarda che codardo. Lui è là che li guarda e dice: beh, non li avete ancora uccisi. Io mi ha fatto due passetti. È sempre questo e niente, è sempre la solita raggio di energia viola dalla mia mano per cercare di ucciderlo. Speriamo stavolta. Aspetta, se l'abbiamo già il prigioniero. Vai, sì, sotto, sì, con sì, è sotto i piedi di Brasato. Okay. L'ho colpito stavolta. Il tuo raggio lo colpisce e lo uccide. Lo lascia lì e in fin di vita questo come si chiama? Coboldo. L'hai colpito su un fianco e gliel'hai completamente rovinato. Cioè lo vedi che non riesce neanche tanto più a reggersi su una delle gambe. Ok, quindi è là. Ok, faccio altro. Mattia. Vai. Io provo ad ucciderlo con una testata. Siediti sopra, siediti sopra. Ok. Aspetta, è per terra o in piedi ancora? No, è in piedi, ma non tanto in piedi. Allora con la testata. Ok. Cosa da tirare? Forza? Allora, sì, fondamentalmente mi fai un... Manca la skill violenza. Un tiro per colpire solo col tuo modificatore di forza. Cioè fai un D20 più il tuo modificatore di forza. Ok. Non ha bonus perché è arrabbiato, no? Sul danno. Sul danno è bonus. No. È troppo basso per te per colpirlo con una testata. Bello. Cioè tu vai per tirare una testata, ti devi piegare a 90 gradi fondamentalmente e questo qua ti vede che lo stai facendo e barcolla un passo indietro e lo manchi. Mannaggia. Andrea. Swag moment è rovinato. Tocca a me. Sì, tocca a te Andrea. Beh, io vado a mettermi... Non riesco a spostarmi. Vado a mettermi qui e cerco con un colpo di scudo di tramortire anche lui senza ucciderlo. Con scudo? O con l'ascia? Sempre con l'ascia, come prima. Sì, fai la stessa cosa che avevi fatto prima. Arrivi, col pomello dell'ascia in fronte. Pa! E va per terra. Abbiamo due prigionieri. Avete due coboldi prigionieri. Così possiamo usarli così per possiamo fare o mangiarli. Come su Waterworld. Quando lei è davanti dici non ucciderò il primo che parla, quindi li facciamo parlare. Ok. Troviamo niente, che ne so, di oggetti. Aspettiamo che si sveglino prima di tutto. Li cercate? Matteo. Sì. Cerchiamo un po' di roba, ok? Con cosa aspetta? Frugate tra i vestiti di quelli che avete ammazzato e di quelli che avete steso e trovate. Io mi calmo. 20 di rame, 20 monete 30. D'argento e 8 monete d'oro. E diamo tutto divino. Quanto a uno che conservi. Sì, ritengo io ovviamente no. Chi è il più buono? 30 monete di rame. 30 di rame, 20 d'argento e 8 d'oro, ho detto. Io ho capito 18. Facciamo 8. E, bene, quindi avete questi due coboldi tramortiti. Li volete risvegliare entrambi? Legarli? Cosa volete fare? Pietro vuole raccogliere i giavellotti. Sì, sì, Pietro li puoi raccogliere. Allora, abbiamo i due coboldi. Secondo me non serve neanche legarli, però li legherei lo stesso, almeno le mani. No, non devi tirare niente per questi giavellotti, Pietro. Io se non sbaglio ho la corda nel mio... Sì, ma anche io ce l'ho la corda nell'esplorer spazio. Okay. Sì, mentre dormono, però cerchiamo di capire una cosa. Se otteniamo le informazioni, poi che ce ne facciamo? Li liberiamo? Bah. No, li portiamo con noi come se fossero Gollum. Secondo me i zombie di Mission. Esatto. Secondo me li leghiamo a un albero e vaffanculo li lasciamo qua, ma non li uccidiamo. Prima o poi qualcuno verrà a recuperarli, ma sarà troppo tardi. Oppure muoiono qua, gli uccelli banchettano con le loro carcasse. Se banchettano con le loro carcasse sono problemi degli uccelli che si ammaleranno. E sarebbe più umano. Vediamo che cosa ci dicono comunque. Scusate, ma i coboldi sono creature naturalmente cattive? Che voi sappiate, sì. Oddio, ci hanno attaccato per primi. In genere sono considerate creature malvagie e tendono ad attaccare carovane, a attaccare mercati, attaccare fondamentalmente chiunque gli capiti lì, soprattutto se loro sono in superiorità numerica. Sapete anche che come ci sono delle presenze tipo draghi o cose del genere... O anche per dire tribù di uomini lucertola o cose simili nella zona, loro tendono ad andare e offrirsi come sudditi di fatto per queste creature che loro vedono come quasi insomma, divine sono in quanto sono vabbè comunque leccaculo. Non saremmo meno razzisti degli elfi se sono dei leccaculo nati insomma ucciderli. Ecco, Pietro dice, vedendo la mia personalità ed ideali, io voto per estirpare le informazioni e poi ucciderli. Ma è un paladino? È un ottimo paladino, direi. Pietro, sei un paladino. Ma i paladini non dovrebbero essere buoni, legali, tutte quelle cose? No, non c'è più quella sì, tipo... Però è tendenzialmente buono, comunque. No, ma infatti... Beh, lui se è non può mettere... No. Sì, però è stato lui l'altra volta a dire nella taverna uccidiamoli per vedere lo spettacolo di nuovo prima che lo dicessi io. Gli ideali mi fanno capire ciò. E non Mattia. Secondo me era Mattia. No, era Pietro proprio che l'ha detto, mi ricordo. Che facciamo? Li svegliamo? Li interroghiamo separatamente? Interroghiamo prima uno, poi l'altro? Prima se intanto spogliamoli, tipo, senza armi, senza niente. Ma io non voglio vedere un coboldo nudo. Girati dall'altra parte. E girati, esatto. Sto scherzando. Vale, potrebbe essere divertente. Vabbè, li disarmiamo, chiaramente. Cioè, quello. Mentre che sono tramortiti, li disarmiamo e li leghiamo. Okay. Leghiamo da parte E il primo che si sveglia proviamo a chiedergli. Ah, aspetta, mettiamogli davanti mentre stanno ancora dormendo le teste degli altri. Ok. Ma no, ma chi se ne frega, nel senso, cioè, no. Abbiamo prendiamo... ucciso tutti. Sì, prendiamo le teste degli altri, gliele mettiamo là davanti, quando si sveglia sono davanti le teste mozzate di tutti gli altri, così tanto per stimolare la loquacità. Per stimolare l'appetito. Vabbè, fate questo mucchio di teste e altri pezzi. Esatto, quello spappolato mattina non c'ha più la testa. Quindi prendete le teste che trovate e le ammucchiate. Le mettiamo là. E ci sono questi due coboldi legati a terra davanti a quel mucchietto di teste. Uno comincia a svegliarsi, a muoversi un attimo e a lamentarsi nella lingua comune, ma esprimendosi in maniera un po' frammentata, e chiedendosi cosa stia succedendo, e poi rendendosi conto di essere legato, a quel punto spalanca gli occhi e si guarda attorno. E spero veda le teste. Sì, le vede e sembra preoccupato, e poi vede voi, in particolare sta fissando la gnoma. Non avevo dubbi, lo so di essere rispondi bene. Alle nostre domande e o ti faremo mangiare dalla gnoma. Io che volevo fare il poliziotto buono. Ma tu sei quella che temono per la loro frampalata. Fammi un tiro di deception, Gabro. Io? Con svantaggio. Ah, con svantaggio? Perché abbiamo messo anche le teste per ricordargli. Sì, ma gli hai appena detto che lo fai mangiare dalla gnoma. Ma non possono mangiare. Sì, comunque è andato bene. Sembra che ci stia credendo. È legato, ma cerca di strisciare più lontano ancora dalla gnoma. Se facessi un po' la faccia cattiva sarebbe ancora meglio. Io esatto, mi metto in posizione mussoliniana, tirando dentro il fiato per sembrare un po' più grande. Ok, fammi un tiro di intimidazione, te. O performance. Allora, no, intimidazione. Aspetta. Dove cade? Ce l'hai nella scheda, nella prima pagina. Sì. E basta che ero suspense e non capivo più. Allora, intimidazione, ho anche meno uno. No, non ha fatto 20. È ancora spaventato, ma sembra un po' meno spaventato di prima. Tranquillizzato. Ok. Cioè, sembra che si sia reso conto che forse non... è difficile che venga mangiato da una gnoma. Io cerco di prendere in mano in qualche modo la situazione. Mi interpongo, diciamo, e dico a questo coboldo che si è svegliato: rispondi alle nostre domande e non ti mangeremo questa sera. Ti guarda e ti chiede: quali domande? Non mi avete ancora chiesto nulla. Dove si trova? E questa è la premessa. L'accampamento della vostra tribù. A cazzo duro dimostra la sua intelligenza. Scusate, perché ci avete attaccati soprattutto? Vi dice Pioi, avrò anche 9, però siete un po' scemi. Il resto della tribù è nella fortezza. Abbiamo conquistato la fortezza dall'esercito degli elfi, perché la nostra tribù è molto forte e il nobile Kartax che ci comanda ci ha resi anche forti. Posso puntare un dito di Eldritch Blast per colpirlo e fargli un po' di dolore? Il nobile Kartax sarebbe un drago? Aspetta, no, ma stai contando una marea di fesserie, cioè abbiamo sconfitta prendendo le cose... Diceva cose contro gli elfi, diamogli ragione. Ti ha detto hanno sconfitto gli elfi, l'hanno conquistata. Non è vero, non hanno sconfitto gli elfi. Sta mentendo, quindi già gli metterebbe un colpo, non una mano, ma una ditata di Eldritch Blast per fargli un po' di male. Ah, no, parte, sì, cioè noi siamo riusciti a fermare questi gnomi, sì, coboldi qua, e secondo te un esercito di coboldi riesce a sconfiggere l'impero degli elfi, che frega una fortezza? Magari sono tanti. Vabbè, ma c'è assieme un drago comunque. Stai attento che se gli fai un altro colpo non letale si viene di nuovo, se non è non letale muore, quindi... Ti posso calpare un incantesimo. C'è il modo di farlo parlare. Ok, ditemi cosa volete fare. Lui vi stava dicendo. Però adesso non puoi far. Dimmi, no. Scusa. Io ti volevo semplicemente cercare gli occhi con il Mage Hand. Ok, Mage Hand è quello cattivo. Cioè... Lei è quella che lo dovrebbe mangiare. Quindi l'ho scritto. Ah no, anzi, glielo infilo su per le narici e cerco di tirarlo su. No, non posso. Non può supportare più. Non può di... toccare niente, Mage Hand, mi sa. Non può toccare no, robe, non può fare danni. Non può fare danni o cose così, no. Sì, ma non fa danni, fa solo male. Fa solo fastidio. No, può manipolare. Esatto, deve dare fastidio sostanzialmente. Ti dà nel naso. Ma io avrei usato suono fantasma. Io gli avrei fatto comparire un suono nelle orecchie per fargli dolore uditivo. Un bel fiscariello nelle orecchie. Con Minor Illusion un po', però. sì, proprio dentro le orecchie, così non importa quanto forte è. È lo stesso troppo prossima, forte. Alla prossima azione, per ora gli voglio infilare due dita nel naso, posso? Comunque, gli faccio ripetere il nome del suo signore e gli chiedo se è il drago oppure un altro coboldo come lui. Il nobile Kartax è un potente drago rosso. Non potete fare nulla contro di lui e... Come si fa per capire le intenzioni? Cosa? Insight, perception? Insight. Allora, ma giusto, possiamo fare dei tiri su Insight? Anch'io ce l'ho, io ho il vantaggio. Cosa vorresti provare a capire? Impotente drago rosso, ma che cazzo di potente drago rosso vuoi che sia? Si sarebbe mangiato tutto l'intero villaggio. È un drago rosso che ha bisogno di mangiare avanti i coboldi, quindi questo drago rosso ad occhio sarà un cucciolo, se va bene. Ti sembra sincero però quando dice che il drago rosso è un potente drago rosso? Sì, per forza ha fatto un insight da 7, qualcun altro faccia un po' di insight. Io c'ho... Invece dell'insight fai l'insalata dopo, va. Insalight. Ci sta tanto bene col brasato. Quanti anni ha sto Kartarax, come si chiama? Kartax. Non lo vi dice il coboldo, non so quanti anni abbia, ma è gigantesco, è enorme. Senti, vabbè, per coboldo, te. Noi non abbiamo paura dei draghi, non ci interessa, sta disturbando i nostri interessi questo drago e la deve smettere. Voi non potete fermarlo, Kartax conquisterà tutta la regione e poi l'impero. Vabbè, lo posso uccidere. Sei noioso, ragazzo. E se gli parlassi in draconico per farlo sentire a suo agio e gli chiedessi di farlo sentire a suo agio? Penso che tu non abbia molte possibilità di farlo sentire a suo agio in questo momento. Ma era per dirgli magari che noi siamo inviati piedi, di un altro drago. Sussurri qualcosa di te. Potremmo dirgli che noi siamo gli inviati di un altro drago che sta cercando di prendere contatto con sto Kartarax o come si chiama, perché è incuriosito delle sue meravigliose attività che sta svolgendo verso questa città di elfi. Fammi un tiro e di deception. Che ci abbiano attaccato e noi ci siamo difesi. Fagli un tiro di deception. E gli stai parlando in draconico, vero? Sì. Il tuo accento probabilmente ha qualcosa che non va, però lo vedi che non si fida di te. Il tuo accento veneto per la c'è prima. Quella declinazione veneta che sul draconico non funziona bene. Ok, se non ha altro da dire eliminiamolo e passiamo al prossimo. Aspetta, ma c'è il bigliettino? Come bigliettino? No, niente. Dove tiene il vostro Kartax, il signore Kartax? Si sta iniziando a muovere anche l'altro coboldo nel frattempo. Dove tiene la merce che avete rubato in tutto questo tempo ai commercianti? La tiene nella sua tana, nel, nella sua reggia. Noi portiamo tutto alla fortezza e da lì lui se lo viene a prendere e sceglie le cose che gli interessano. Non siete mai stati alla sua tana? Alcuni della tribù sì, io no. E sai neanche dove trova? No. Che cazzo se ne fa un drago delle ricchezze? Tutti i draghi sono avidi. Lo stai chiedendo al kobold? Non lo so se è come il Signore degli Anelli, per cui domando, sì. Lo stai chiedendo al kobold o a me? Ah, al kobold. Ti dice, non lo so, ma il nobile Kartax si merita tutte le ricchezze, le vuole come segno del suo potere. No, non mi piace proprio questo tipo. I draghi sono avidi e con un ego smisurato, vanitosi. Io quindi... lo so negli altri universi, ma non so se in questo è così. Sì, sono così dappertutto. Ah, è il marchio di fabbrica. Quasi dappertutto. Ok. Si sveglia nel frattempo anche l'altro coboldo. Allora, può segnarti sulla mappa se hai idea di dove sia sta benedetta tana di Kartax? Lui non ha idea, ha detto che non lo sa. Quindi è inutile per noi. Dovete dirlo voi. Cerchiamo di fargli capire, caro piccolo coboldo, qualcosa che non possa chiamare aiuto, lo lasciamo qua. Gli tronchiamo la lingua, lo lasciamo qua. Caro piccolo coboldo, macilento, se ci dai qualche informazione utile, magari... la cosa sarà rapida e indolore, altrimenti l'altro coboldo si sveglia nel frattempo e si mette a urlare, si rende conto di essere legato, vede le teste, vede che è stato interrogando il suo compagno e si mette a urlare e chiedere di essere liberato. Perché mai dovremmo liberarti? Ti guarda un attimo dubbioso. Come se non avesse considerato le conseguenze della sua domanda. Dacci un motivo per liberarti. E ti chiede semplicemente di nuovo di essere liberarti, che lui non ha fatto niente di male. Ci avete attaccati. Mi avete ferito soprattutto. nel cuore. Avete fatto la lacrimuccia. Nei sentimenti. Continua semplicemente a dire di liberarlo, di lasciarlo andare, che lui non ha fatto niente di male. Tu ci hai attaccati, tu hai fatto molto di male, quindi tentare come minimo devi darci delle risposte. Dove si trova Kartax? Aspetta che ti dico se sai che funziona. Anche se magari c'ho il malus, essendo gnomo, magari si fida meno. Non so. Adesso te lo dico subito come funziona. Cioè... puoi provare, sì. Ok, allora. E devi dirmi però la tua... di sì. La mia? Di sì. 13. Quindi... classe di città degli incantesimi. Vado? Tu non devi fare niente. Ah, non devo fare niente, ok. No. Ti guarda... Su quale dei due coboldi l'hai fatto? Su quello che stava urlando, e gli dico anche di calmarsi, di stare tranquillo. Smette che di urlare e ti guarda d'occhi spalancati. Digli che sia che è tra amici. È tantissimo questo poverino. L'hai affascinato. No, tranquillo, tranquillizzati. Sei fra amici. Se ti comporti bene, ti si lascia andare. Però, insomma, perché sei così spaventato? Annuisce lentamente quando dici che se si comporta bene lo fa andare e. Probabilmente lui pensa che sia un sorriso, però visto che ha una faccia un po' da drago, un po' da lucertola, sembra più un ghigno solo denti. E qual è la tua domanda? Scusa? Perché è così spaventato? Beh, mi sono svegliato con resto della tribù. I resti dei miei compagni in questo raid, per terra davanti a me, guerrieri tutto attorno... Non dovevo aver paura. Vabbè, se non mi chiedesse perché si è spaventato, Dai, era all'ordine del giorno la morte fra i coboldi, scusate. Comunque, però, no, svegliarsi i prigionieri con un cumulo di pezzi. Guarda il lato positivo, sei ancora vivo. Esatto, sei vivo, il combattimento è finito e noi siamo combattenti leali, a parte questo mezzelfo qui, per cui se vi comportate bene, aiutami anche a convincere il tuo compagno. Aiutateci a capire questo drago. Annuisce verso il suo compagno, annuisce verso di te e continua quel suo tentativo di sorriso, fondamentalmente. Oh, che carino, gli do anche una carezzina, se vuoi. Ti morde. Vuoi provare a dargli una carezzina? Morde. Sì, dai, gli do una carezzina. In un posto dove non può mordermi. Un po' si tira indietro, però essendo legato non riesce proprio a scappare. Mi fa tenerezza, ragazzi, aiutatemi voi che siete più cattivi. Ma sei troppo creepy in questo momento, cioè avrei troppo paura. Devi stare tranquillo, non è successo niente, tutti morti intorno. Poi lo carezza. sì, infatti, una bambola assassina. Devi vedere le apine del... Notate che quando il coboldo guarda lei, ha gli occhi spalancati e sorride. Come muove un attimo lo sguardo e guarda uno qualunque di voi... Nella sua espressione vedete un misto di terrore, rabbia e odio. Chiedi se conosce il covo di Kartax. Conosci il covo di Kartax, il drago rosso? Mentre gli sta facendo la domanda, comincia già a scuotere la testa. Dice che non ha mai avuto l'onore di andare con Kartax alla sua dimora. Ma lo ha mai visto lui Kartax? L'ha sempre solo visto alla fortezza quando andava a prendere la roba, che il bottino che loro portavano. E sa perché è venuto proprio qui in queste terre? No, ti dice che lui, cioè lui... Per lui il drago è come fosse una divinità, capisci? E non si pone neanche il problema di capire le motivazioni del drago. Lo segue ciecamente, okay. Punto. E conosce un po'... Chi altro è alleato del drago? C'è tutta la tribù. E la persona che... Il membro della tribù che più ha a che fare con drago, chiaramente, è il testa blu. Il testa blu, ma il grande coboldo. Cosa succederebbe se noi portassimo la testa di Kartax? Come, scusa? Cosa succederebbe se noi uccidessimo Kartax? Voi non potete uccidere Kartax, è impossibile. Che si troverebbe un altro drago. Abbiamo ucciso diversi draghi in passato. Guarda incredulo e non ci crede. Deception devo fare. 20. Spalanca gli occhi e guarda verso la gnoma per conferma. È vero, è verissimo. Ho tutto io. È incredibile, ma Kartax è il più possente dei draghi, non avete speranza. Vabbè, insomma, se ne abbiamo ucciso qualcuno, un po' di speranza ce l'abbiamo. Quanto è estesa questa tribù? Cioè, quanti siete? Di qualcosa di tenero. ci sta pensando. Il concetto di contare non è del tutto familiare per i kobold in generale, per questo in particolare. Vi ma guarda, questi vi dice, kobold sono migliaia. Utili molte migliaia, sono molte utili migliaia. Almeno per fare una borsa di pelle, questi kobold. Di coccodrillo. Vuoi fare una borsa di kobold? Queste cose che tu sappia non è una cosa che venga fatta, però non sai se perché è infattibile o perché è una cosa orribile. In Order of the Stick, Belkar di solito uccide sempre il personaggio coboldo e usa la testa per vari utilizzi, tipo come scodella per i nachos, come le tira per il gatto e cose del genere. Ma scusate, portiamo mutande in questa in beh, questo medioevo immaginario. Che domanda esistono è le mutande? Avete della biancheria, sì, però non sono le mutande elasticizzate comode dei giorni nostri. Ok, quindi se faccio uno strappamutande con Mejand I coboldi non sono molto vestiti, cioè... No, no, a gabbro. A gabbro. Che rovina tutto. Puoi farlo, certo. Se ne accorge che sei stato te. Eh sì, non fa niente. Se ne accorgerà. Allora, abbiamo sto coboldo che Ma dice sempre. Che sono migliaia di migliaia. Ne avete due di coboldi. L'altro è zittito che fissa il suo compagno e non riesce a spiegarsi perché stia parlando con questa gnoma. Lo convinciamo perché che siamo piccoli, non so quante altre informazioni riusciremo a tirare fuori da questi coboldi. Secondo me niente, che facciamo con questi qua? Io non li voglio. Io li voglio vendare, il mercato... qualcosa che non possano chiedere aiuto. No, e li portiamo con noi dove andremo ad accamparci per questa notte, magari un po' più lontani dal sentiero. No, e li lasciamo lì. Certo. Gential, c'è un mercato di schiavi? No! No, la schiavitù è bandita nell'impero. Smettila di essere malvagio. Il sonno neanche a questo stiene. Smetti di essere malvagio. Beh, se li lasciamo qua muoiono, almeno li portiamo di là, vivono una vita... No, se li lasciamo qua non moriranno, li lasciamo in un'ora dura, prima o poi qualcuno verrà a prenderli, tanto ci sono pattuglie di coboldi e mercanti che passano per queste strade, quindi prima o poi qualcuno li prenderà. E quindi saranno... Esatto. Con noi. Saranno cazzi loro poi, io non voglio ammazzare due cazzo di lucertole legate. Ho una domanda per il master. Vado? Sì, sentiamo. Allora, il mio personaggio è abbozzato. Posso, se non combatto, comparire lì? Cioè, ad esempio, posso essere lì e ascoltare? Adesso? Sì. No, facciamolo. Posso aver ascoltato tutta la conversazione? Facciamolo poi con calma. L'ingresso nel party. Sì, ma speravo di avervi spiato, di potervi aver spiato fino adesso. Per avere le informazioni. Quello eccetera. Poi ne parliamo eventualmente. Ti tiro una Eldritch negli occhi perché non ci hai aiutato. Ok, perché avrei un'idea riguardo che cosa fare con loro. Mm-hmm. Tipo... Io tiro martellate Io spero che non sia lasciarli liberi e mandarli come messaggeri da Kartax per dirgli che stiamo arrivando. Lasciargli le mani legate e lasciarli liberi, sì. Per vedere dove vanno. E poi raidare il villaggio. E seguirli? Io sì, però non ci vuoi suggerire le cose, maledetto. Io sono una purista. No, ma soprattutto, se li lasciamo... noi sappiamo già dove è il posto, noi dobbiamo solo girarci attorno. Se non riusciamo ad andare, questi arrivano e dicono, stanno arrivando. E quindi questi si aspettano un arrivo. A meno che non li vogliamo mandare come nostri messaggeri, dicendo che vogliamo parlare col drago, per intavolare trattative, tentando la via diplomatica. No, non sono dei buoni messaggeri, secondo me. Noi adesso andiamo ad accamparci un po' più lontano dal sentiero, questi qua ce li trasciniamo dietro e domani mattina decide anche cosa fare. Io sono d'accordo con lui. Chi è? Chi non ha bisogno di dormire che per ricaricare? È pomeriggio, diciamo. Tempo che, se volete proseguire verso la foresta, tempo che arrivate alla foresta sarà più o meno sera, al margine della foresta. Sì, però se ci avviciniamo troppo alla foresta, io non vorrei accamparmi in una zona di ragni giganti. Quelli sono nella foresta. Quindi al limite della foresta riusciamo a... Cioè, non è che vanno a caccia in giro, comunque, i ragni giganti. Questo ve l'aveva detto prima Gabro. Piazzano il loro tele... E restano là. Noi dovremmo accamparci perché? No, non è che dovreste, però parlavate di accamparvi per la notte. Se volete continuare verso la foresta, arrivate lì che è sera, diciamo, è l'ora del tramonto. Se volete tornare verso il villaggio anche, siete più o meno a metà strada. Sì. Facciamo sì due comboldi qua. Cosa vogliamo fare? andare ad accamparci. No, ma noi abbiamo, cioè, abbiamo bisogno. Scusate. In città e sbolognare la convoglia qualcuno. E quella è la seconda alternativa. Noi sappiamo se in città c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a prendersi i coboldi? C'è la guardia cittadina. Beh, la guardia cittadina potrebbe sicuramente sbolognarli loro e vedere sì, se... Sì, la guardia cittadina gli taglia la testa e le fica su una picca. Oh, sì, quella è una distinta possibilità. Ma facciamolo direttamente noi, risparmiamo tempo. Vabbè, ma che facciamo? No, torniamo verso la città, perdiamo la guardia cittadina e dirgli che erano... appostati lungo il sentiero. Sì, e dire abbiamo sgomberato il sentiero da una banda di coboldi. Questi sono due che abbiamo portato, cacciati un po' di sono due, i due sopravvissuti prigionieri. Se volete fargli delle domande anche voi, noi non siamo riusciti a ricavare informazioni particolarmente utili. Però perdiamo un'altra mezza giornata, cioè se torniamo un'altra volta là. Allora, cerchiamo di far capire ai coboldi che o ci decidono a parlare rapidamente o non li consegniamo alla guardia cittadina, che di certo non sarà clemente quanto noi. Okay. Il coboldo su cui che era stato charmato dal personaggio di Eleonora, sì, non stavo pensando al nome del personaggio, Rowan, la guarda e cioè, sembra disponibile a rispondere a qualunque domanda lui comunque, a lei. Sì, però tanto non sanno niente, nel senso, non sanno niente, sono semplicemente affascinatissimi da studrare. Avrebbe già risposto, sono migliaia di kobold e che non sa dove si trovi il drago, quindi possiamo tranquillamente consegnarli alla giustizia. Sono dei delinquentelli alla fine, per la giustizia. Cioè, conta che sono razze senzienti, quindi non è che sono degli animali che li ammazzi e basta. Questi qua li mettono in galera, questi qua non è che li ammazzano subito così a vista. Cioè c'è una sorta di civiltà in questo mondo. Beh, sai che nel tuo clan questo tipo di creature non vengono fatte prigioniere normalmente. Vabbè, cioè, ma noi siamo nani, siamo dei fighi. Quando i nani, il tuo clan o i clan che conosci hanno a che fare con mostri di questo tipo, non importa che siano delle creature che sanno parlare, li fanno fuori. Vabbè, ma anche gli elfi, noi nani, quindi non è che... Ma gli elfi sono razzisti nei confronti nani, degli umani, figurati tutti, nei confronti di questi poveri. Fuori tutti, non è che... Ha detto che gli elfi sono razzisti. Gli elfi sono razzisti. No, dico, sono stronzi nei confronti degli umani, figurati verso questi poverini. Ditemi voi cosa volete fare, ecco. La votazione, ragazzi. Mamma mia. Io voto per consegnare alla giustizia. Cioè, sono io non un neutrale buono tendente verso il legale, io in teoria. Se la giustizia caccia soldi, sono d'accordo anch'io di portarli. La giustizia? Caccia soldi. Caccia soldi. Una volta che siano lì, anche se non li caccia, li lasciano lì. Non è che non caccia soldi, allora li ammazziamo lì davanti. Che facciano quello che vogliono. Però potremmo insistere con la giustizia. Guardate, ve li abbiamo portati. Qualche moneta fa sempre utile. Potremmo cercare di capire se c'è una qualche taglia sui singoli briganti, però... Ma sono carne da macello questi qua. Allora macelliamoli. Che taglia vuoi che ci sia? Anche secondo me. Cioè, è come mio parere, eh? E gli altri che dicono qua? Voi coboldi che ne pensate? Vi chiedono di lasciarli andare. Non era prevista come possibilità, mi dispiace. Se fosse possibile, il coboldo charmato si rivolge a Roy e gli dice: ma tu non ci vuoi lasciare andare? Non posso lasciarvi andare perché voi ci avete attaccato e potreste attaccare altre persone, però non ti preoccupare, non vi farò uccidere. No, no, Faremo no, cioè, clemenza. se secondo te non dobbiamo attaccare le persone, non attacchiamo altre persone. Sono convinta che per ora tu mi risponda così. Eh sì, poi c'è l'IVA Cartax e obbediranno a Cartax. No, più che altro vi rendete conto che siete carne da macello per questo drago? Per quale motivo No, combattete noi per lui? serviamo il nobile Cartax, qualunque cosa Perché per il non nobile hanno Cartax. altro. Ho capito, ma sto nobile è cattivo. È più cattivo di noi. Molto più cattivo di noi. Arruolateli. È un'essenza Vi manda talmente all'ottobaraggio. superiore che il concetto di cattivo, buono, non si può neanche applicare. Neanche il concetto di cacca. Come Cioè, fa si fa con i discorsi bambini, è filosofici adesso cacca. sto È un kobold Vabbè, molto. È ok. studiato. Ho fatto la buona per troppo tempo. Lo uccido. Dai, decidete cosa volete fare. Hanno perso la battaglia, devono morire. No, chi è che ha detto, chi è che vota la morte? Io voto per Io. portarli alla guardia cittadina e lasciarli a loro. Tu chi E sei? levarci un Aspettane. problema. Mattia, Chi l'ha non ho detto? capito, voto per uccidere. Inoltre, tornando dalla guardia cittadina, noi dormiamo in locanda e non dobbiamo accamparci in un prato. Ha giudicato, torniamo indietro alla Ho comunità capito, della però locanda. torniamo indietro, perdiamo tutto il tempo. Vabbè, ok. Domani Vabbè, ma mattina li c'è passiamo di mezza qua, giornata di troviamo viaggio altri da qui coboldi e rifacciamo dalla città tutto. alla foresta, quindi non è che hai perso tempo. Allora, torniamo indietro, li portiamo alla cittadina, andiamo a dormire alla locanda, domani mattina ci svegliamo, troviamo un nuovo personaggio, andiamo in cerca di coboldi e ne troviamo un altro po'. Come sedersi al falò per Dark Souls. Ok. Allora, vi Questo già avviate invece sì. poi verso Jessia, ripetiamo. ripercorrendo la strada. Dopo un po' che vi siete incamminati, il coboldo che fino adesso stava inseguendo Rowyn in maniera estremamente docile, comincia di nuovo ad agitarsi e a urlare e insultarti per quello che gli hai fatto, per avergli estorto informazioni con magia. Non ho mai detto comunque niente, mamma mia, che Entrambi cretino. si strattonano e non sono proprio comodi da portare. Cioè, cercano in tutti i modi di tirare e scappare, anche se sono legati e Siamo non ce la sicuri, fanno. ragazzi? Lo charmo di nuovo, lo posso buttare di nuovo questo incantesimo? Si può buttare una volta sola. Non so quanti incantesimi hai già usato. Uno, ma ho usato soltanto cantrips finora. Beh, scusate, Barbaro. Sì, io ho puoi usarlo 19 di di forza. Il Il barbaro. barbaro sicuramente ha un sacco di forza, ne portiamo a spalle uno a testa dei kobold. Quanto peserà un kobold? Sì, anche a trascinarli non è che state avendo troppe difficoltà. È la Sì, però almeno scorciatura che cercano di. non sono scalmanati. Volete caricarveli su tipo sacco di patate? Ma Sì, alla sì, fine sì. quanto peserà un kobold? 20 kg, Beh, sì, neanche. 30 kg? Posso Cioè, li rompergli le portiamo così. scatole mentre vengono trascinate, vengono portate al sacco di patate? Sì, tra l'altro continuano a scalciare mentre sono in No, braccio vabbè, loro. li tramortiamo, vaffanculo. Ah, li mettete Forse KO puoi di dirne nuovo. uno con un firebolt sul sedere, scusate. Mettiamo una bastonata in testa. Rischi di ucciderlo con un fireball sul sedere. Ok, no. Tramortiamoli, sdegno carico. Ok, secondo trauma cranico del giorno per questi due coinvolti. Se avessero saputo qualcosa, li abbiamo colpiti talmente forte in testa che comunque non si ricordano. Arrivate alla città, le guardie vi vedono tornare, non capiscono, poi vi vedono con dei prigionieri, allora si avvicinano e vi guardano con aria interrogativa, vi chiedono cosa è successo, cosa. Siamo stati ci hanno teso un'imboscata dei coboldi. Abbiamo Questi sconfitto due 80 coboldi. sono sopravvissuti. Siamo riusciti a ricavare da loro quasi nessuna informazione. Magari voi sarete più fortunati, quindi ve li consegniamo. Una delle guardie vi fa strada verso l'edificio che viene usato come loro caserma, dove hanno anche una sorta di prigione, cioè una gabbia messa lì dentro a questo edificio. E vi fanno lasciare questi Li coboldi. lasciamo lì. Ok. Ciao, io Lancia. saluto in maniera Andiamo verso la particolarmente taverna, a questo accorata. punto andiamo di nuovo a passare la notte in taverna. L'oste vi vede L'oste arrivare, deve vi arrivare, guarda un po' guarda stranito, visti i vostri stranito. discorsi della mattina, però le stanze sono ancora libere perché non è che c'è più traffico. Io Io abbiamo prendo la subito stanza mostato, singola, abbiamo per portato ovvi dei motivi. prigionieri in prigione, quindi passeremo di nuovo la notte qui se ci sono ancora stanze. Sì, le stanze sono libere, però il sindaco aveva pagato per una notte. Che Penso che pettacchina. possiamo metterci d'accordo, visto il lavoro che stiamo facendo per voi. Certo, potete pagando per una notte. E quanto costerebbe? Sono 5 monete d'argento a camera per la notte. Ostiana. Minchia, ma il sindaco ci aveva dato 50 monete d'oro. Ve la date voi come anticipo, non per pagare la notte. Sì, ma io non me le sono segnate da nessuna parte, allora me le segno. Che cazzo ne so io che Scusa. voi ve le siete segnate o no? Scusa. Allora, ok, me le sono segnate. Quanto hai detto? 5 monete d'argento a testa o in tutto? Camera. A camera. Quindi 25 Davanti monete c'erano d'argento. le camere. Ma è vero, potremmo vendergli un koboldo come sguattero Ma le abbiamo di lasciate in galera. Paradox? Li avete lasciati in prigione. O 20 monete d'argento, ti va bene lo stesso? Hai 20 monete d'argento? No, la cosa sono 25, perché 20? Perché ci fai lo sconto, visto che ci occupiamo 5 camere, qua non c'è mai nessuno. Io ci perdo. No, Sì. tu ci guadagni, se no andiamo a dormire da un'altra parte. Buona fortuna a trovare altre camere in città. Pietro propone un'unica stanza. Potete Ma io fare vedo, io in realtà vedo il mezzelfo e la gnoma che vanno particolarmente d'accordo. Ma Cosa volete potremmo. Io mi nascondo dietro il mezz'orco intanto. a questo simpaticone di Oste. Oste, stiamo cercando di lavorare per voi. Abbiamo già dirottato via un bel po' di koboldi. Potresti fare uno sconto su queste stanze se non vuoi che le cose peggiorino. Tirami una persuasion. Ragazzi, io Una non ho persuasion? presente Sì. quanti soldi abbiamo, quanti soldi ho io, quante Io siano ho fortune 20 d'argento. monete d'argento da prima di quelle che abbiamo recuperato e abbiamo condiviso, per Chi quello che è? volevo offrire nei 20. Ti guarda Guarda. Gabro e vi dice: posso mettere assieme, includerla a colazione? Abbondante, assai abbondante. La Non quello schifo che ho visto stamattina. E c'è rimasto ancora qualcosa di quello che avevamo preparato per cena. Non avendo gente, non avevamo preparato molto, ma c'è rimasto ancora dell'arrosto. Pietro. Va Notte, bene, Pietro. dai. Pago Okay. queste Ti 25 monete mando. d'argento. Ok, pagate le vostre monete. Quanti so chi, aspetta, chi è che stava tenendo la cassa? Io. Pagate Ok, io. bon. Paga tu, abbiamo pagato un po' di roba e andiamo a dormire tutti quanti perché è mezzanotte e mezza.